América Latina, América Latina, América Latina, América Latina, América Latina, América Latina, América Latina, A, M, Erika Latina, A, M, E, Rica Latina, A, M, E, R, Ica Latina, A, M, E, R, I, Ca Latina, A, M, E, R, I, C, A Latina, A, M, E, R, I, C, A Latina, A, M, E, R, I, C, A Latina, A, M, E, R, I, Ca Latina, A, M, E, R, I, Ca Latina, A, M, E, Rica Latina, A, M, Erika Latina, A, América Latina, América Latina, América Latina, América Latina, América Latina, América Latina, América Latina, América Latina. A, M, A, M, E, A, M, E, A, M, A, M, E, R, A, M, A, M, E, A, M, A, M, E, R, A, M, A, M, E, R, I, A, M, E, R, I, C, A, M, A, M, E, A, M, A, M, A, M, E.